Storie italiane. L'avaro milionario. Molto, molto tempo fa viveva in un certo villaggio un ricco mercante di nome Richard. Possedeva dei campi e vendeva grano e verdure. I suoi affari andavano così bene che era milionario. Si potrebbe pensare che vivesse una vita lussuosa e magnifica. Ma Richard era un vero avaro. E come? Papà, le mie scarpe sono tutte rovinate! Me ne serve un nuovo paio! Le abbiamo comprate solo 2 anni fa! Vuoi farmi diventare povero? Papà, i miei piedi stanno crescendo e guarda quanto mi fanno male queste scarpe! Solo le scarpe nuove fanno male! Il che significa che non le hai indossate abbastanza e sono ancora nuove! Quindi, prendi questa! Prendi un unguento per i tuoi piedi. L'unguento costa 50 ducati. Le scarpe ne costano 30. Papà! Basta! Adesso, vai! Tutti vogliono i miei soldi! Questo era Richard, che non avrebbe speso un solo centesimo per niente, mentre la sua stanza del tesoro era piena d'oro, perle e diamanti. Le sue scarpe erano logore. I vestiti della sua famiglia erano rattoppati e permetteva alla sua famiglia e ai suoi servitori di mangiare solo 2 volte al giorno. Un giorno, Richard stava camminando al mercato, facendo trasportare ai suoi servi sacchi pieni di grano. Non avrebbe mai preso un carrello per loro. Passò accanto ad una panetteria. Il fornaio aveva appena finito di preparare un'enorme torta al cioccolato. Il delizioso aroma della torta arrivò fino a Richard e lui provò un desiderio così forte, come mai prima d'ora, di assaggiare quella torta meravigliosa. Sei tornato? Sì. Cosa c'è che non va? Niente. Non stai bene? No, voglio la torta. Una calda, cremosa e succulenta torta al cioccolato. Sembra deliziosa. Aspetta, farò non una, ma 10 torte per noi e tutti i nostri domestici e operai. Cosa? Ecco perché non volevo dire niente. Vuoi farmi diventare povero? Bene, lasciami preparare una torta per te, me e i bambini. Perché i bambini dovrebbero mangiare? Voglio dire, rovinerai i loro denti. Bene, allora farò una piccola torta per me e per te. Vuoi anche tu la torta? Non posso crederti, Richard. Bene, farò un solo cupcake per te. Ciò salverà il tuo potente tesoro? Cuocila velocemente, muoio dalla voglia di assaggiarla. Quindi la moglie di Richard preparò una piccola torta al cioccolato. Oh, era succulenta e cremosa, calda, fresca e piena di cioccolato. Richard ne prese un boccone dopo l'altro. Poi si leccò le dita e persino leccò il piatto. Ma non ne diede nemmeno una briciola a sua moglie. Proprio in quel momento stava passando un angelo che vide tutta la scena e ne fu infastidito. Un uomo così benedetto, ricco e così misero e cattivo, invece di condividere la sua generosità con il mondo, non lascia nemmeno che la sua famiglia ne goda. Merita di ricevere una lezione, una bella lezione. Quindi l'angelo aspettò la mattina dopo, quando Richard uscì per andare al lavoro. Quindi prese le sembianze di Richard, andò a casa sua e chiamò tutti i domestici. Tutti voi, venite qui. Sì, signore. Ho appena incontrato un angelo che mi ha consigliato di condividere la mia ricchezza con tutti. Mi ha detto che, se non lo farò, morirò stanotte. Quindi andate nel villaggio e dite a tutti che la mia stanza del tesoro sarà aperta oggi. Chiunque potrà venire a prendere quello che vuole. Andate, adesso! E sì, se qualcuno, anche io stesso, provasse a fermarvi, Picchiatemi con un bastone e allontanatemi. Ricordate, se non condividerò oggi la mia ricchezza, morirò! Come desidera, signore! Quindi i domestici andarono nel villaggio e portarono il messaggio del loro padrone. Presto l'intero villaggio si affollò nella casa di Richard e prese diamanti, oro, soldi dalla stanza del tesoro. A mezzogiorno, quando Richard tornò a casa per pranzo, ebbe uno shock tremendo. Ehi, come osate? Uscite dalla mia stanza del tesoro! Servi, portateli via! Ladri, tornate indietro! Sto allontanando le persone! Quindi dobbiamo batterlo con un bastone? Come possiamo farlo? Lui è il nostro padrone! Non ricordi cosa aveva detto stamattina? Dobbiamo batterlo e scacciarlo! E così il povero Richard fu cacciato da casa sua dai suoi stessi domestici. Andò alla corte del re e raccontò tutta la sua storia. L'intero villaggio mi stava derubando, Vostra Altezza! Cosa? Ma se tu stesso hai chiesto loro di venire e condividere la tua ricchezza? Ci sono testimoni oculari di questo! Sono stato al lavoro tutta la mattina, sire! Sei tu il vero Richard? Chi è? È una truffa, un imbroglione! È impossibile vedere la differenza. Boh. Ma se dovessi scegliere, perché non dovrei credere a un uomo che condivide la sua ricchezza piuttosto che uno che è così avaro da lasciare la sua stessa famiglia morire di fame? Vostra Altezza, mi metterà in prigione? Può darsi. Vostra Altezza, non fatelo! Sta dicendo la verità, è il vero Richard. Io sono un angelo e l'ho fatto solo per insegnargli una lezione. Arrestatelo, Vostra Altezza. Ha provato a prendere la mia ricchezza. Altezza, in quanto sua moglie, la sua ricchezza appartiene anche a me e sono d'accordo sul fatto che mio marito sia davvero un terribile avaro. Il gentile angelo non ha fatto niente di male nel punirlo. Vedi, Richard, a che serve aggrapparsi alla ricchezza quando le persone più vicine a te sono così infastidite, così ferite dalla tua miseria? Non hai amici, e anche la tua famiglia non considererebbe giusto se ti mandassi in prigione. È questo il tipo di vita che vuoi? No, Altezza. Mi dispiace. Ora ho capito la mia follia. Ottimo! Ti do un'ultima possibilità per correggere i tuoi modi. Grazie, Altezza. Per celebrare il cambiamento di mio marito, annuncio un banchetto per tutti nel nostro villaggio. D'accordo. Bene.